America 24 di Mario Platero. And I'm going to continue to insist that the Democrats scrap their big government takeover of healthcare and start over. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. La voce che avete sentito è di John Boehner, il capo della minoranza repubblicana alla Camera, una voce ostile alla proposta di riforma sanitaria presentata ieri dal presidente Obama. Perché? Perché, ha detto Boehner, toglie credibilità all'incontro che avremo giovedì prossimo e che doveva essere un ponte fra democratici e repubblicani. In realtà, in effetti, ieri Barack Obama ha soprattutto parlato ai suoi compagni di partito, ha cercato di trovare un punto di intesa fra la proposta del Senato e quella della Camera, ha scelto una via di mezzo, un pacchetto di spesa di 950 miliardi di dollari per assicurare 31 milioni di persone, ha anche scelto di escludere l'opzione pubblica che alla Camera era molto desiderata ed ha anche scelto di lasciare l'ipotesi di finanziare alcune cliniche abortiste. È una partita politica calcolata questa lanciata da Barack Obama, che poggia su molti aspetti tecnici. Sentiamo Linda Douglas, che ieri ci ha dato alcuni dettagli del progetto dalla Casa Bianca. Very, very importantly, it puts our budget and our economy on a more stable path by reducing the deficit by $100 billion over the next 10 years and by cutting government overspending and reining in waste, fraud and abuse. And about a trillion over the second decade. La Douglas parla di miliardi di dollari, esce dal percorso più strettamente politico che riguarda per esempio l'opzione pubblica e si concentra su alcuni aspetti che riguardano più la classe media, una classe media americana preoccupata da questo progetto di legge perché teme la classe media di dover pagare più tasse. E dunque Barack Obama è intervenuto riducendo i contributi possibili per coloro che nella classe media hanno redditi fra i 33.700 e gli $88.000. Il tetto massimo che costoro dovranno pagare se dovranno sottoscrivere una polizza per l'assicurazione medica sarà di $8.380, uno sconto rispetto agli $8.600 del Senato e agli oltre $10.000 della Camera. Barack Obama ha anche accolto una protesta del sindacato. Le proposte originarie chiedevano di imporre una tassa per quei pacchetti, per quelle polizze che costavano più di $23.000 all'anno per una famiglia, polizze più complete. Ebbene, Obama ha aumentato il tetto da $23.000 a $27.000 e la concessione riguarderà tutti i lavoratori, non soltanto coloro iscritti al sindacato, e partirà soltanto nel 2018. Doctor, una canzone degli anni 60 di Robert Palmer, riflette bene, secondo me, il malessere d'insieme in cui si trova oggi Washington, pervasa dalla polarizzazione. I democratici oggi non hanno più al Senato quella maggioranza blindata che può escludere l'ostruzionismo da parte dei repubblicani. I repubblicani dunque ne approfitteranno in ogni modo. L'incontro di giovedì 25, secondo me, diventa un po' la foglia di fico dietro cui tutti potranno nascondersi per poter poi dire, beh, è fallito, quindi ognuno farà quel che meglio crede. E i democratici hanno in qualche modo un'arma segreta, potrebbero cercare di adottare il piano del Senato senza passare per una riconciliazione dei due diversi progetti, portare, dicevo, il piano del Senato direttamente alla Camera e passarlo con una maggioranza semplice. In questo modo vinceranno la riforma, prenderanno certo un rischio politico, ma in qualche modo avranno portato a casa una vittoria di cui hanno un bisogno disperato, sempre che la Camera accetti. Ed ora occupiamoci di un altro grattacapo americano, la crisi. Sentiamo cosa ne pensa il premio Nobel Edmund Phelps, che ritiene che forse anche per l'America ci sia un rischio Grecia. The United States is very much like Greece in a fundamental way. Stati Uniti sulla strada della Grecia. Non è un grido di allarme, è una riflessione pagata di Edmund Phelps, premio Nobel per l'economia nel 2006. La motivazione del suo premio è adatta al nostro tempo, dice, per aver approfondito la comprensione della relazione fra impatti di breve termine e di lungo termine della politica economica. Dunque, abbiamo avuto un impatto di breve termine la settimana scorsa con l'aumento del tasso di sconto. All'inizio sembrava il mercato preoccuparsi, poi ha mostrato nervi saldi. Phelps in sostanza dice: il problema americano non è legato oggi ai tassi, l'inflazione è sotto controllo, il problema americano è il disavanzo pubblico e il forte indebitamento. Da una parte gli Stati Uniti non riescono ad aumentare le tasse per far fronte al mancato introito fiscale dovuto al forte tasso di disoccupazione, dall'altra non riescono a diminuire le spese. A un certo punto, dice Phelps, gli investitori si chiederanno come mai non si mettono le cose a posto e se questo processo di debito eccessivo tra l'altro avviene a livello mondiale, ci sarà un impatto negativo a quel punto e non positivo per la crescita. Su questo dunque Phelps pensa in modo diametralmente opposto a Paul Krugman, che invece invoca forti disavanzi per ricreare la disoccupazione. Perché il dibattito è interessante? Perché domani Ben Bernanke andrà in audizione al Congresso e si parlerà di questi argomenti: tassi, disavanzi pubblici, debito, necessità di tagliare le spese con pericolose conseguenze. Questa situazione, dice Phelps, diventa una nuvola nera sul dollaro. La valuta americana si deprezzerà. Non succederà tutto ciò in tempi brevi, perché in questo momento il mercato è più preoccupato da quel che succede in Europa. Nel momento in cui, tuttavia, l'Europa dovesse normalizzarsi, ecco che i problemi americani diventeranno, secondo lui, abnormi. I think the deficit is even 3 years from now when the unemployment rate will be, let's say, down to 8%, maybe even 7%. Abnormi perché? Perché al problema del disavanzo pubblico e del debito, che a quel punto non aiuteranno necessariamente a creare crescita perché ci sarà un rischio di rimbalzo dei tassi di interesse, guardando di nuovo in avanti a 3 anni di distanza, secondo Phelps, il tasso di disoccupazione resterà elevato intorno all'8% e anche se dovesse scendere al 7%, per allora i disavanzi pubblici resteranno molto forti, una dinamica che ha bisogno di soluzioni. Maybe a value-added tax, maybe bring back higher taxes on estates. Il consiglio a questo punto non è più per Bernanke, è per l'amministrazione ed è per il Congresso ed è forse quello che lo stesso governatore della Fed dovrebbe dire domani ai suoi interlocutori in Parlamento. Secondo Phelps ci vorranno a quel punto, nel giro di 1 anno, di 2 anni, delle forme di aumenti fiscali, magari una tassa sul valore aggiunto oppure delle tasse più elevate per gli stati, e ci vorranno soprattutto tagli di spesa. Nessun politico ovviamente vuole vedere una base aerea chiusa nel suo stato, ma se tutti si mettono insieme e si sacrificano a livello nazionale, allora sarà più facile prendere le decisioni difficili. Senza dimenticare che, dice, sottolinea Phelps, nel frattempo ci vorranno più che stimoli dei nuovi trasferimenti sociali, quantomeno per questioni umanitarie, e forse riusciranno un pochino a rilanciare l'occupazione. Altre notizie, questa riguarda Angelina Jolie e non Brad Pitt, ma un incontro con suo padre, l'attore John Voight. Non si parlavano da 7 anni. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il presidente Barack Obama ha visto ieri alla Casa Bianca Shakira, la cantante colombiana con cui ha parlato di un UNICEF e di aiuti per i bambini. Approfittiamo di questo incontro per proporvi Whenever, Wherever di Shakira. The deal, my dear. They're over. Here I- Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!